riempiti da migliaia di visioni, i dischi dell'età moderna, catalogati come padiglioni, hanno l'indole da ribellioni, ci modellano la testa avvelenati come pungiglioni, prende piede come un fuoriserie, ma dura come il tempo di un barattolo di maionese, la tua canzone, catena di montaggio per l'industria televisione, non sopporto la mia generazione, la demotivazione, i featuring a pagamento, solamente per avere un nome, è assodato il clima di saturazione miniaturizzato, poi confezionato a tavolino, e vado via dal fato, e volo via gabbiano clandestino, è un tempo surrogato, ritorno alle radici, a quando nel passato giravano i vinili. Sai, non mi meraviglio, sai, era meglio un tempo, torno alle radici, coi miei appunti di viaggio. Sai, non mi meraviglio, sai, era meglio un tempo, torno alle radici, coi miei appunti di viaggio. Qualsiasi connotato è prenotato a pagamento, la forma d'arte piano piano sta morendo, e la parola chiave è centro commerciale multifunzionale, è mercato della globalizzazione infinitesimale, con lo stipendio decurtato a fine mese, mi allontano dalle vittime delle apparenze contaminate dall'involuzione, accattivante situazione, obiettivamente non conta il tuo valore ma conta il numero delle visite, in mondo visione metamorfosi comportamentale. Trovare un'evasione significa accettare compromessi pantalone, e tutto ti è fatale, il bandolo della matassa sta nel tempo dedicabile ad un'opera che poco ti rilassa, ti rende un avvoltoio e la tua musica carcassa. Sai, non mi meraviglio, sai.